Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ed eccoci al venerdì di Tutti Convocati. Giovanni Capuano saluta gli ascoltatori. Potete vederci sul nostro sito radio24.it, sulla pagina Facebook Tutti Convocati trattino Radio24 e Radio24. Bravissimo, detto, bravissimo. Così Giorgio De Luca, bene, tranquillo. Giorgio De Luca, nostro autore. Potete vederci, quindi potete vederci e anche grande. Sentirci e anche scrivere le vostre domande e considerazioni. E oggi che siamo in due ed è tutto bravi, più semplice, leggeremo. Leggeremo? Dai, leggeremo. Oggi va leggeremo, bene, da Facebook. Allora, Gianmarco Ferronato ovviamente in regia, Edoardo Lavezzanini in redazione, un saluto particolare a Pierluigi Pardo, ciao Pier. Come va ragazzi, come va? Molto bene, molto bene, temi della settimana da ripercorrere con te, con gli ascoltatori e con Capuano che non vedo da domenica. Due cosine le diciamo di Donnarumma. Sì. due cosine. Vabbè, giusto un paio. Questo temi silenzio. Della settimana, flop dell'Under 21, il mercato che non decolla, ad esempio per la Roma e per l'Inter, ma adesso la Roma ha venduto Salah per un bel pacco di soldoni, ha anche rifinanziato il suo debito, ma di questo parleremo più tardi con Alessandro Vocalelli, direttore del Corriere dello Sport, perché diversi interrogativi e diverse cose girano intorno alla Roma. E poi c'è la voce finalmente di Spalletti sul grande acquisto, grande colpo dell'Inter, Borja Valero. Borja Valero è un calciatore che abbiamo guardato l'anno scorso quando io ero alla Roma, che ha seguito l'Inter quando io non c'ero, è un calciatore che probabilmente cambierà squadra e come calciatori forti che cambiano squadra, se noi avremo bisogno di un calciatore in quel ruolo lì, per il momento noi siamo a posto, non abbiamo bisogno di nessun calciatore in quel ruolo lì, perché abbiamo molti centrocampisti, ma lui è uno di sicuro affidamento oltre che di qualità. Beh, in parte ha ragione, il mercato dell'Inter non è ancora cominciato perché a differenza della Roma non riesce ancora a vendere, non riesce esatto. A vendere. O no, Piero? Siamo al paradosso, eh? No, dico, siamo al paradosso, nel senso che appunto non si sa chi sia più felice, nel senso che a Roma sono giustamente preoccupati perché comunque sono tante eccezioni così importanti in poche ore. No, aspetta, ma non l'AS, non c'è ancora l'accordo. Non c'è ancora l'accordo con tra le società. Però già il fatto che ci sia, dopo che Monchi aveva detto che la Roma non è un supermarket, comunque un supplemento di indagine sulla possibilità di venderlo, vuol dire che non sì. È incredibile. Sì. Ma poi vabbè, se poi diciamo solo l'ha venduto a 42 più 8 di bonus, non è venduto male. No? Non è venduto male. Il vero paradosso del calcio di oggi è che addirittura si può quasi essere, non dico felici, ma rintrancati per delle eccezioni di giocatori se vengono scelti bene, a patto però poi ovviamente di reinvestire, che è il Pier, la Roma e l'Inter ne avevano bisogno, certo. Ne hanno bisogno, cioè la Roma ne aveva bisogno a questo punto, l'Inter ne ha bisogno, solo che lo sanno anche gli altri, no Gio? Io credo che il problema sia sempre solo la chiarezza. Il problema credo sia sempre solo la chiarezza. Secondo me ieri Spalletti ha fatto un'operazione intelligente, quella di far finta che il mercato non gli interessi perché l'Inter è già forte così. No, ha detto centrocampisti, siamo a posto, faremo un paio di cose dietro, però noi insomma lui l'aveva già detto alla presentazione, la squadra è buona, deve diventare squadra. La verità è che poi per l'Inter c'è il rischio, ma sai, c'è il rischio che per mesi i tifosi dell'Inter si sono sentiti raccontare una storia diversa, che sarebbero arrivati grandi colpi, che l'Inter avrebbe trattato i top player, quelle cose lì. Poi la realtà oggi è un po' diversa dal primo luglio, vedremo. Secondo me ieri Spalletti è stato molto realista e molto aziendalista. Credo che dal primo luglio Spalletti parlerà una lingua diversa. Sì, credo anche l'Inter parlerà una lingua diversa. Anche la Roma. Anche la Roma, sono curioso di capirlo, ma dopo abbiamo Ragazzi, però la Roma l'ha già preso il difensore e uno lo poteva far partire e credo abbia scelto chi far partire. Cioè, io capisco i tifosi della Roma, ma secondo me Monchi ha fatto un'operazione interessante. Ha già preso il prossimo difensore e ha scelto fra Rudiger e Manolaschi far partire. Ha tenuto Strootman e Nainggolan, che certo, tutti davamo per morti, nel senso partiti. E siamo andati avanti per mesi a raccontarlo. È sanguinoso Salah, perché Salah è un giocatore unico come Perisic, del resto sono due giocatori Perisic. Che in Italia Quadrado non ce ne sono invece tanti che sembrava così. Dover andare via, ha reinchiostrato per la Juventus, quindi era la solita questione di grano fino al 2020. Sai che Antonio Saluzzo scrive un saluto particolare al professionista Genta su Facebook, tutti convocati trattino Radio 24. Io faccio invece un saluto particolare a Enzo Gambaro, che ieri ci ha chiamato dagli ascoltatori. Non so perché non siamo riusciti a parlare. Credo che Enzo, da ex Rossonero, ciao, un saluto particolare a te, abbia qualcosa da dire sull'argomento della settimana, che sinceramente posso dirvi la verità, a me ormai ha fatto vedere che oggi è la giornata mondiale del cane in ufficio. Chia. È quello il tema. Ma infatti oramai di Donnarumma si parla da molte settimane. Ieri ero in auto, vi stavo ascoltando perché la vostra è una trasmissione interessante. Grazie Enzo, grazie. E ancora a parlare di Donnarumma, e in tutta Italia tutti parlano che è colpa di Donnarumma, di Raiola. Certi vogliono anche dire che è colpa della famiglia di Donnarumma, che per carità, in minima percentuale forse qualcosa di vero tutti dicono. Ma la verità assoluta, io penso che qui c'è stata sicuramente una grandissima negligenza da parte di chi ha comprato il Milan. Perché chi era padrone del Milan prima non aveva nessun interesse a prolungare il contratto a Donnarumma, a patto che non ci fossero stati dei paletti inseriti dai nuovi acquirenti. Cioè, mi spiego, se ho due minuti per spiegare un attimino la cosa. Vai Enzo. Se io voglio comprare il Barcellona, a parte il fatturato, gli introiti, i debiti e tutto quello che si vuole valutare, vado a vedere il parco calciatori e so che ci sono Neymar, Suarez e Messi, che possono valere 400 milioni di euro. Quindi quando vado ad acquistare la società, questi tre calciatori ne devo tenere conto, però è ovvio che se questi tre calciatori sono a scadenza di contratto dopo un anno che io ho acquistato la società, di 400 milioni di euro passiamo a 150 milioni di euro, quindi 250 milioni in meno. Cioè, secondo me, quelli che hanno acquistato il Milan, probabilmente nella trattativa, nella foga, che poi di foga vogliamo parlare, un anno e mezzo di trattativa non mi sembra una foga, quindi in un anno e mezzo io penso che uno avrebbe dovuto guardare Donnarumma titolare a 16 anni, nazionale, fenomeno del calcio italiano, così dicono. E poi altri giocatori. Quindi cosa vuol dire? Che quelli nuovi se la sono andata a cercare. Adesso dare la colpa a Donnarumma e al procuratore, che tra l'altro secondo me è uno dei più bravi in assoluto, sembra superfluo. Io confermo il mio pensiero, che è questo: Donnarumma a 18 anni fa benissimo, poi la sua famiglia, non so, ieri in Montella è andato a trovarlo, magari qualcosa cambia. Donnarumma a 18 anni fa benissimo ad affidarsi dice al procuratore fai tu, no? Ci sono state delle, diciamo, incomprensioni, no? Tra il incomprensioni. Sì, delle incompatibilità, diciamo. No, però perdonatemi, mi state raccontando che il Donnarumma per il momento rompe con il Milan perché Mirabelli sta antipatico a Mino Raiola? No, perché io ho capito un quadro diverso. Io ho capito fino a 10 giorni fa che Mino Raiola e Donnarumma nemmeno rispondevano a qualunque tipo di sollecitazione, compresa un'offerta da 5 milioni all'anno. Poi se vogliamo raccontarci che è colpa che Mirabelli è un po' ruvido, per me si può raccontare tutto. No, va bene Giovanni, però secondo me è una tessera però del puzzle. Anche il questa, fatto di aver messo davanti a Mino Raiola un out, o firmi oggi che è giusto. Che cosa deve fare un club? Fatemi capire, no? Scusate un attimo. Allora, secondo me la nuova società sta cercando di riparare in tutte le maniere al danno fatto durante l'acquisizione, perché è chiaro che poi arrivi a un punto di non ritorno adesso. Cioè, attenzione, a me la società che c'erano prima non è che Galliani mi stesse particolarmente simpatico. Galliani negli ultimi 7 anni di Milan ha fatto dei danni incalcolabili tecnicamente parlando, cioè ha fatto un mercato che è una roba quindi perdonami Enzo, cioè tu stai dicendo che i cinesi che entravano dovevano o garantirsi che Donnarumma rinnovasse prima, quando era per tempo, per intenderci, oppure farsi fare lo sconto, perché il Milan senza Donnarumma vale meno. Ma sì, ma lo sconto, lo dico sconto, col paradosso. Scusate, lo sconto quando si compra una società, io vado a vedere i contratti in scadenza, Donnarumma 2018, bene, 700 milioni di euro la valutazione. Se Donnarumma, quando lo prendiamo noi, il contratto sarà in scadenza 2018, cioè un anno dopo, cioè, quindi non vale, noi prendiamo nulla, la società, sì, anziché 700, però, i soldi ve ne diamo 600. Eh beh, io penso che il signor Galliani all'epoca si sarebbe preoccupato di fargli di rinnovare il contratto. Attenzione, Galliani lì non c'entra niente, è l'unico, perché... Il closing sappiamo che è stato particolarmente complicato, quindi introdurre pure la clausola Donnarumma secondo me l'avrebbe reso ancora più complicato. Il discorso che dire, in principio ci sta, è ovvio che Donnarumma è un valore per il Milan. A me sembra onestamente che la società abbia fatto quello che doveva fare. Ecco, i voti non li so. Sul fatto che possa essere stato ruvido, per questo ci sta, non lo so, non c'ero. Ma... però a me sembra che il Milan, il nuovo Milan è arrivato, si è insediato, ha cominciato a fare mercato, ha messo Donnarumma come punto numero uno di tutte le priorità, ha proposto a Donnarumma e al suo procuratore un contratto direi più che congruo, perché 4,5 a salire è un buon contratto per un ragazzo e difatti, di 18 anni. E difatti Ryan non l'ha contestato, ecco, cioè, francamente non ci ha detto, ci hanno proposto l'elemosina. Poi ripeto che magari all'interno, no, è anche il discorso che faceva Media per esempio l'altro ieri, che magari si potesse aspettare la fine dell'europeo. E non lo so, questi sono tutti i discorsi che ci stanno, che ci possa essere stato appunto qualche momento ruvido nella trattativa. Ma quando tu spendi le cifre che hanno speso questi qua, ma il parco calciatori, il valore dei cioè, scusate un attimo, hanno rinnovato il contratto a Montolivo, con tutto rispetto, ma sarà stato forse meglio rinnovare il contratto precedente di Donnarumma? Sì, ma era una delle domande che si faceva a Fassone quest'inverno, anche appunto, sul rinnovo di contratto di Bonaventura. Appunto, ma allora Bonaventura e Montolivo, vabbè, è una cosa a parte, cioè, io compro il Milan, va bene, Montolivo ce l'ho, okay. Ma ragazzi, ma Donnarumma, ma chi compra una società, il valore, certo, è il giocatore che vale di più, è inutile stare lì in prospettiva, perché... no, è chiaro, Enzo, ragazzi... questo è chiaro, è il giocatore che vale di più. Che ha fatto il closing in un anno e mezzo, e tra l'altro in un anno e mezzo Donnarumma da 16 anni fino ad oggi è stato titolare. Sì. Cioè, io non mi rendo conto che questo qui ha il contratto in scadenza nel 2018, ma stiamo scherzando. No, ma questo che ha fatto il closing, su questo so, hai ragione, però ragazzi, alt, fermi tutti. Allora, dobbiamo rispettare... Enzo, possiamo richiamarti uno di questi giorni? Perché... Sì, volentieri, okay. Quando volete. Ti ringrazio intanto. Ci fermiamo ciao Enzo Gambaro. Ci fermiamo per il traffico e poi torniamo con la questione Roma. Tutti convocati. Salutiamo sempre gli ascoltatori che ci stanno anche guardando, Giovanni Capuano che è qui con me, Piero Gipardo collegato al telefono, e un saluto particolare, se me lo consenti, Pier, ad Alessandro Boccarelli, direttore del Corsport, del nuovo Corsport che a me piace molto, peraltro. Direttore. Oh, grazie. No, grazie. Prego. Ma il punto a questo è un altro, cioè che succede a Roma? Sala venduto per ragioni di fair play finanziario, c'erano questi 50 milioni da incassare entro la fine di giugno. Manolas, stiamo a vedere, perché andrà. Anche Manolas, sì, oggi lo scrive il tuo giornale, andrà anche Manolas, e poi non se ne va più nessuno, no? Non è diaspora, poi magari no, qualcuno arriva, probabilmente anche un altro prima della fine del mese, cioè penso che andrà via anche Paredes, yes. Ma qualcuno arriverà o no? Sì, perché adesso la Roma, perché... secondo me, si è staccata dal Napoli come seconda forza del campionato. Sì, però diciamo la Roma credo avesse voglia, diciamo così, non diciamo necessità, perché sennò magari poi qualcuno si arrabbia, però aveva voglia di prima incassare entro il 30 di giugno e poi dal 1 di luglio voglia, esigenza. Sì, ricomincerà a investire, a spendere, diciamo così, un giocatore che quasi sicuramente dovrebbe arrivare Seri del Nizza, di cui tutti parlano molto bene, soprattutto che è un è un pallino di Monchi, credo che abbia anche una buona quotazione, oltre i 25, tra i 25 e 30 milioni di euro, un centrocampista, ripeto, su cui Monchi punta moltissimo, e credo sarà il primo dei rinforzi, però è chiaro che al momento il saldo tecnico, quello economico è inattivo, quello tecnico è passivo. Sì, questo mi sembra sì, anche se ho l'impressione, ma magari sbaglio, che la Roma sia riuscita a scegliere chi vendere, soprattutto nel caso del difensore. Sarà imparabile, nel senso che quando ti arriva un'offerta così, esatto, soprattutto alla luce di quello che diceva Carlo prima, cioè tutti sanno che la Roma, in qualche modo anche l'Inter, fino al 30 giugno deve muoversi con, diciamo così, con la seconda marcia, non di più, sì, e deve monetizzare. Quindi è chiaro che lo sanno anche quelli che vengono a chiedere a comprare, quelli, certo. L'offerta, i 42 più 8 di bonus per Salah sono tanta roba, un ottimo prezzo in queste condizioni. E per Manolas, io credo onestamente, al di là dell'episodio con Dzeko in nazionale, da quello che mi risulta, insomma, Manolas era al presente un giocatore sicuramente importante dal punto di vista tecnico, non era esattamente un leader dello spogliatoio, quindi io credo che tutto sommato Monchi abbia deciso di fare questa scelta abbastanza a cuor leggero. Paredes è una situazione borderline, nel senso che sappiamo che la Roma lo considera un buon giocatore, ma un giocatore cedibile, un giocatore che, tanto per capirci, a 18-20 milioni comincia ad essere interessante cedere, ma 12 forse no. Ecco, io credo che Paredes si darà un po' la misura, perché Paredes è il classico giocatore che la Roma può tenere o può mandare via. C'è dibattito sul fatto che possa diventare o meno un crack, un punto di riferimento al centrocampo, sì, quindi molto liberata dall'offerta. Se la Roma lo vende a 10-13 milioni, allora è un segno, secondo me, un po' di debolezza. Se lo vende a 18-20 milioni è un'opportunità. Monchi è uno di quelli che ha 20 quaderni. Sì, anche perché tu sai, sappiamo tutti che a questo punto la Roma non ha più quella mannaia sul collo che invece ha ancora l'Inter. Direttore, cosa significa il rifinanziamento del debito con Goldman Sachs, 230 milioni prolungato al 2022? Vuol dire che non è che sono soldi che reinvesti sul mercato, ma sono soldi, come dice la nota, che servono per l'operatività, per cui insomma è un debito, cioè un debito aumentato, un debito allungato, per cui insomma è una notizia, diciamo così, che è positiva il fatto che te l'abbiano accordato. Sì. Sei un po' deluso? Da che? Ma dai, diciamo la verità, adesso Pallotta ha risolto, sta finendo di risolvere la questione in prospettiva dello stadio. Io, se fossi un tifoso romanista, mi aspetterei che la Roma entrasse in un'altra era in cui si comincia a mettere mano a degli investimenti senza magari stare a fare il gioco del rifinanziamento con Goldman Sachs. Ma guarda, questo è proprio l'anno, è proprio l'anno, secondo me, che in qualche modo racconta questo. E insomma, io ieri ero a Roma, nelle radio c'è delusione perché insomma la Roma oltretutto arriva da seconda, quindi ha la certezza degli introiti del girone della Champions League, quindi avrebbe delle condizioni, una squadra che arriva seconda e che è costretta a vendere, no, ma quella è una questione contabile di fair play finanziario, sì, l'altra invece è dove li prendo i soldi e vado a debito. Del rifinanziamento, cioè, il rifinanziamento, appunto, come diceva giustamente il direttore, è una buona notizia perché A te lo accordano, B ti dà ossigeno, però il bicchiere se lo vuoi vedere mezzo vuoto è che hai bisogno di questo, non hai la forza tua per poter, e questo per una società che comunque sta ottenendo risultati, sta andando in Europa stabilmente, e una proprietà che insomma ragazzi, i soldi nel calcio italiano non li mette più quasi più nessuno, comunque adesso vabbè che fa un caldo bestia, però siamo al 23 di giugno, quindi è un po' prestino, no? Adesso la Roma ha risolto questo problema senza quale non poteva fare mercato. Le squadre non è che nascono così, diciamo, spontaneamente, per cui se la squadra che abbiamo detto che è arrivata seconda, per cui noi partiamo da questo presupposto e questa base, ha già rinunciato a tre titolarissimi, sì, nel senso Szczęsny, Manolas e Salah sono tre titolarissimi, e allora vuol dire poi ne arriveranno degli altri, però io credo proprio banalmente che fare e disfare una squadra ogni anno ti ritarda ogni volta la costruzione, per cui ecco, questo è il dubbio, al di là del fatto che tu li vendi anche bene e riprendi dei buoni giocatori, magari degli ottimi giocatori, però da un punto di vista tecnico, se sei arrivato a a un livello di costruzione di squadra e poi devi ricominciare da capo. Ma hai la sensazione che la vera anti-Juve sia il Napoli? Aspetta, appunto, la domanda che volevo fare a tutti e tre prima di andare in borsa e salutare il direttore Vocalelli è: adesso nel ranking potenziale c'è Juventus prima, Napoli secondo, Roma terza, direttore? Beh, in questo momento sì, cioè, oggi la fotografia dice che Napoli non ha venduto nessuno. Tra l'altro il Napoli sta facendo una cosa assolutamente in controtendenza nel calcio italiano, perché la Juve comunque probabilmente, se arrivano i 110 per Bonucci e Alessandro, forse anche giustamente magari pensa di venderli. La Roma ha venduto, l'Inter venderà sicuramente qualcuno in quest'ultima settimana, il Napoli ha speso 100 milioni di euro di ingaggi per trattenere tutti. Sì, ha fatto un mercato trattenendo i giocatori, ha fatto mercato. È quello che fanno le squadre che vincono, nel senso che poi c'è sempre il piccolo asterisco della Juve. La Juve, vedi, adesso tratta Pellegri, ha preso Schick, cioè la Juve è sempre un passo avanti, nel senso che la Juve ha la possibilità di mettersi già a programmare il futuro da qui a 2 anni, 3 anni, 4 anni, cioè veramente ha un metro di vantaggio su tutte. Però il Napoli sta facendo le cose giuste, sta facendo, perché insomma, tu pensa alla gestione Sabatini alla Roma, si può discutere ovviamente su alcune cose che sono andate molto bene, altre sono andate meno bene. Io credo che in assoluto tutto il periodo Sabatini sia stato positivo, ha preso tanti giocatori. Li ha valorizzati, li ha venduti, li ha venduti molto bene. Però, hai ragione. Se tu continui ad avere una società nella quale Sabatini prima, magari Monchi adesso, va, compra dei giocatori, li compra poco, è bravo, è competente, si capisce, e l'allenatore è bravo, te li valorizza, sì, ha fatto un sacco di plusvalenze, ma ricominci. La distanza non si colma mai, quella distanza dalla Juventus. Direttore, ti ringrazio, grazie Alessandro Vocalelli. Ciao a tutti. Aspetto la risposta di Capuano. Assolutamente, credo che a Napoli abbiano capito che o quest'anno mai più, cioè passare dagli 86 punti a provare a farne più di 90 e vedere poi la Juve come risponde, il momento è adesso, anche perché momento poi è adesso. Callejon, Mertens, Albiol, ci sono anche ragazzi, Amsic, che cominciano ad avere la carta d'identità abbastanza pesantità. Dico solo una cosa, 2 secondi. Sì, dirla. Il calcio italiano, Pier, i soldi, fanno fatica a metterli, perché la Roma fa questa operazione a debito, il Milan sappiamo che fa il finanziamento a debito, l'Inter comunque sono prestiti che vengono fatti da Suning all'Inter, sono pochi quelli che oramai da qualche anno a questa parte mettono soldi veri dentro. Allora, ci fermiamo per la borsa, poi torniamo, come sapete questa settimana abbiamo fatto, a proposito di Napoli, il giro dei tifosi eccellenti, ieri c'era Ugo Conti per il Milan, e oggi c'è il direttore dell'Ischia Film Festival. Indovinate chi è? Aspettateci. Ad avere i soldi di Inzaghi, ad avere i soldi di Pippo Gol, ad avere i soldi di Inzaghi. Ok, Inzaghi! Ad avere i soldi di Pippo Gol. Chiudi! Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione, dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su rds.it. Tutti convocati. Allora, ripartiamo da Gabriele da Bologna, ascoltatore 800 24 00 24, numero verde. Giovanni Capuano qui con me, saluta gli ascoltatori. Salutiamo tutti, la pagina è tutti convocati trattino Radio 24, grande, oppure grande, Radio 24 grande. Su Facebook. Ho scritto qualcosa? Sì, guarda, c'è chi dice che sulla maglia del Milan è una normale polo, confermo il blu. Poi blu, ci sono un paio di amici, adesso mi si è bloccato un attimo il video, però ci sono un paio di amici, quindi non riesco a citare il nome, che precisano che Donnarumma era minorenne e i contratti si possono fare solo da maggiorenne, di... e quindi questo è 25 febbraio del 2017, cioè il giorno in cui ha compiuto 18 anni, però certo, magari si poteva intavolare un ragionamento, si poteva cominciare, c'erano anche delle armi di pressione magari più forti di quelli di oggi. Gigi. Però vediamo come va a finire questa storia. Come va a finire? Nato il giorno prima di mia figlia, pensate, non poteva nascermi da una Roma. No, non tutto bene che le voglio. Che stronzo sarà che contenta. Sono. Che stronzo che sono! Gabriele, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. No, io volevo intervenire proprio sulla vicenda della Roma. C'è una parte delle cronache, della narrazione che a me colpisce sempre. Cioè, dare per assodato che Raiola sia bravissimo. Nessuno può mettere in dubbio le sue qualità di mercante nel contrattare sostanzialmente. Però questa affermazione, dire che è bravissimo, sembra partire dal presupposto che l'unico interesse che lui debba curare sia quello economico, che nella sua ottica sarà anche vero, anzi sicuramente vero. Però io mi domando, se tu sei l'agente di un ragazzo di 18 anni, puoi dire di aver fatto veramente bene il tuo lavoro nel momento in cui hai creato una condizione in cui gli è stata messa sulle spalle una pressione enorme? Perché noi discutiamo sempre del suo grandissimo talento, ma oggettivamente la sua carriera oggi è in una fase in cui è più difficile di ieri. Prima o poi sarebbe arrivata, perché il suo talento l'avrebbe prima o poi portato ad essere sotto pressione, eccetera. Però la voglia di farlo correre immediatamente, di metterlo immediatamente in questo tritacarne per due soldi in più, vediamo come va a finire. Forse anche quattro soldi in più. Vediamo come va. Se io fossi il padre di Donnarumma stesso, o uno che vuol bene a Donnarumma, mi chiederei: siamo sicuri che tutto questo sia stato davvero l'interesse? Vediamo come va a finire. Io posso battere le mani, dare il premio all'intervento della settimana. Diamo il premio della critica per Gabriele. Premio della critica, sono d'accordo al 100%. Il discorso abbiamo fatto qualche volta in questi giorni. La cosa importante è che ci sia stata sintonia fra ragazzo e procuratore. La risposta sembra essere no. Però, perdonatemi, Donnarumma non ha ancora detto il contrario. Scusate, Mino, ci siamo capiti male. Il ragionamento è importante soprattutto sul principio, perché, ripeto, al netto di tutte le questioni diciamo di carattere, di gratitudine, di etica, che lasciamo perdere, diciamo che non ce ne frega niente. Quello che però è interessante è proprio quello che dice l'ascoltatore, cioè ha più senso giocarsi un all-in, come dicono gli appassionati di poker, a 18 anni, andare a Madrid con le pressioni, ammesso che sia Madrid, lo stadio è fischiato Cristiano Ronaldo e tutti gli altri, rovinarsi un po' l'immagine, perché di Donnarumma se ne è parlato molto, insomma è stato anche additato come un esempio, no, di un ragazzo che corre troppo, di ingordigia, no? Oppure crescere invece in un ambiente che ti protegge di più, prenderti un buon contratto, io però ho un'impressione, perdonatemi, è aperto, però che un procuratore non debba essere visto soltanto come quantità di soldi che fa fare al suo assistito. Io credo, Pier, che insomma la carriera di Mino Raiola, piaccia o no, sbagliano anche i migliori, è quella tipologia lì, cioè di un agente particolarmente aggressivo, particolarmente attaccante. Allora, se tu sei una persona fatta, finita, che realmente è disposta a fare uno strappo, è disposta ad affrontare anche qualche bu della critica, i social network, la tua immagine che un pochino si rovinerà, allora va benissimo. Ma se invece, come sembra in queste ore, da quello che apprendiamo, probabilmente non sei così convinto, forse non ti aspettavi tutto questo casino, allora forse hai sbagliato. Allora, c'è un ascoltatore che scrive... Alla fine, Pier, se non ci fosse stato lo strappo, anche cercato dal Milan con l'ultimatum, probabilmente non si sarebbe arrivati a vedere l'effetto che fa. C'è un ascoltatore che scrive: non vi siete rotti di parlare di Donnarumma? Io personalmente sì. No, io un po' sì. Ma noi andiamo avanti ancora una decina di giorni, senza problemi. Però io voglio dire, secondo voi devo dare del tuo o del lei al direttore dell'Ischia Film Festival? Del voi. Assolutamente del tuo, assolutamente del tuo. Sono però affascinato molto a proposito di cinema. Boris Sollazzo. Salve. Tu sai che stiamo facendo il pullman Io Pardo Capuano e tutta Radio 24. Ma io non vedo l'ora. Tra l'altro, se volete, c'è anche la serata calcistica Crazy for Football e Maradonapoli il 27, ce lo possiamo vedere tutti e due. E ci divertiamo parecchio, ma poi vi porto un po' in giro, che questa isola è meravigliosa. Però dicevo, a proposito di cinema, l'unico che potrebbe venire è Pardo. Noi siamo qui al chiodo. Ma io non escludo di venire, ma fino a quando c'è lì? Fino al primo luglio. Fino al primo luglio, ma c'è. Ti sento, che hai detto, Pardo? Pier? Caduto. Dico, facciamo da qui la trasmissione. Facciamo la trasmissione. Ma non potevi dire. Castello Aragonese. Boris Donazzo, ma non potevi dire prima che ci organizzavamo qualcosa? Io conto sempre sul fatto di esserci qui anche nel 2018. Voi dite allora, una parola e sarete. Cominciamo a lavorarci ora, magari riusciamo ad arrivare al. Chiediamo a Raiola. Però non trovate che sia molto cinematografico il modo in cui viene narrato il caso Donnarumma? Insomma, no. Non mi pare che. Boris, che ci fosse, io ti ho chiamato per parlare del Napoli. Non mi ricomincia con Donnarumma. No, tanto... appunto, dicevo, non mi pare che ci fosse tutta questa poesia al rinnovo di Insigne, eh? Cioè, qua invece ci sta un Montella, no, ma allora, tra allora, lacrime. Sì, allora, il Napoli sta facendo mercato oppure no? Ha fatto mercato oppure no? È un mercato di mantenimento, ma mantenimento costoso di una rosa che ha fatto un patto, stiamo qui. Adesso è secondo nel ranking, perché è davanti alla Roma. Allora, se ti dovessi dire, se alla fine di questa stagione di calciomercato si dovesse finire come siamo adesso, sarei deluso, è evidente, è ovvio. Chi vuoi? Detto questo, però va detto anche che in un momento in cui c'è chi si vende Salah e sta per vendersi Manolas, tu i tuoi più forti te li sei mantenuti. Io credo che quelli dovevano venderli, cioè 50 dovevano incassarli, per le ragioni che sai. Eh sì, per carità, però insomma questo vuol dire rinforzarsi, perché se quella che è arrivata davanti a te si priva del corrispondente di Insigne, di Koulibaly tuo, vuol dire che adesso tu sei più forte, è abbastanza facile, matematico. Poi sicuramente Monchi comprerà dei giocatori più forti e torneranno ad essere più forti e a vincere probabilmente. Il solito pessimismo napoletano. Il triplete. No, io, a me piace molto quello che sta seguendo Giunto. Lì mi preoccupa magari questo immobilismo di De Laurentiis. Devo dire un asse in particolare mi interessa. Berenguer lo conosco poco, ma mi fido insomma del fiuto di Giuntoli. Mi piacerebbe, anche se ci spero poco, che magari l'ingolosimento per Donnarumma faccia sì che magari Szczęsny torni dalle parti di Castel Volturno, come sembrava. Senti, ma tu ti terresti Reina, che ha chiesto un rinnovo a 34 anni, ha chiesto un triennalone, oppure lasciamo stare? Ma io che allora, onestamente, ho grande stima di Reina, nonostante non abbia fatto la sua migliore stagione. Io credo che lui abbia proprio un valore come libero, come conduttore della difesa. Faccio una piccola considerazione: Raul Albiol ha fatto una sola stagione cattiva a Napoli ed era la stagione in cui non c'era Reina, e questo qualcosa sicuramente vuol dire. Detto questo, secondo me l'attaccamento alla maglia, tornando a Raiola, no? Hamsik la dimostrò mandando via Raiola, forse mettendo in difficoltà adesso Raiola stesso, perché ha creato un precedente, e Reina non lo può dimostrare solo con i tweet, lo deve dimostrare magari anche osservando quel patto che tutti conosciamo, che ha fatto lo spogliatoio del Napoli, e che magari può portarlo anche il prossimo anno a scadenza, se veramente si sono così lucrati i rapporti con Aureli De Laurentiis, ma a provarci quest'anno. Cioè, non è un mistero che se c'è la possibilità di fare qualcosa è il prossimo anno. Sì, poi chiaro, sì, questo è chiaro. Allora, direttore stai lì, Boris Sollazzo, sempre. Ma di motore non parlate proprio oggi, ma come? Andrea da Modena, ma se sono tre mesi, forse di più, che abbiamo al venerdì l'appuntamento con Racing Team, c'è anche oggi dopo il GR delle 15, tanto traffico. I love this game. Tutti convocati. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta. Tutti convocati. Allora, stiamo parlando di Napoli. Chiudendo il giro settimanale tifosi illustri, Boris Sollazzo, con Pardo al telefono, Capuano qui con me, e tutti dicono, la domanda è: ma questo Napoli dove lo puoi migliorare? Me l'ha suggerita Giorgio De Luca, ma ce l'avevo in mente anch'io, ovviamente, perché è difficile, è la cosa più difficile. Fammi un nome, due. No, è l'implicita dimostrazione di quanto il Napoli sia già forte. Dove voi sapete, io penso che il Napoli già l'anno scorso fosse più completo della Roma, poi in realtà la differenza l'ha fatta gol di Perotti al 90esimo ed è stato bravo comunque Spalletti, secondo me alla fine arrivare davanti a Sarri. Però insomma il dibattito è aperto sul valore delle due squadre. Secondo me la strategia dei rinnovi è qualcosa di molto importante. Sì, è vero. No, bisogna dare atto a De Laurentiis, secondo me, di questo, perché proprio il discorso che facevamo prima con Bucarelli: se tu una squadra ogni anno la smembri, anche se la smembri in maniera virtuosa dal punto di vista monetario, nel senso che riesce a vendere bene, no, ma certo, e a comprare Pierluigi, bene, però comunque certo, riparti da casa. Napoli certo, ha capito che questo deve essere l'anno, e sono d'accordo, anch'io mi aspetto da Reina una dimostrazione precisa, ma di attaccamento. Ma se dove fine... si migliora, la domanda, se devo dire un ruolo, è per me portiere. Portiere. Siamo sempre il lì. Reina dell'anno scorso, che rimane un grande portiere della storia del calcio, però non è stato all'altezza, secondo me, di una, di una squadra che vuole. Quindi tu dici l'unico modo per migliorare il Napoli è non l'unico. Allora, un altro qual è? Un altro. Te ne dico un altro. A Madrid è scomparso Zielinski. Era sembrato morbidino, forse Zielinski è un buon giocatore, è un ragazzo giovane, che però deve crescere tutto, forse se tu ti giochi l'all-in in una stagione hai bisogno di uno di un gradino superiore. Lì in mezzo, adesso non per prendermela con Zielinski, lo so, anche la Juve ne ha 6 o 7, ma tutti hanno detto che ne serve almeno uno di qualità, sì, però, in più. Però Gio, dire che Zielinski è sparito a Madrid è come dire che Dybala è sparito a Cardiff, nel senso che Zielinski ha fatto una buona stagione, ha fatto un'ottima stagione, però se tu mi cerchi dove migliorare il Napoli con l'ottica di dire l'anno prossimo è l'anno dove devo provare a vincere questo benedetto scudetto, al di là del discorso del portiere, io ti dico dammi un altro centrocampista da mettere a fianco ad Amsic. No, non lo so, questo poi vedranno loro, però dammi un centrocampista da 40 milioni di euro, da 50 milioni di euro, fammi un nome. Comunque, Boris Sollazzo, dimmi, no, ok, va bene, Boris Sollazzo, fammi un nome. Ma no, ma può essere chiunque, può essere il Fernandinho di turno, cioè secondo me il Napoli ha bisogno, io scherzando tempo fa dicevo Iniesta, no, quando non si sapeva se Iniesta sarebbe rimasto o meno, cioè quel tipo di giocatore che secondo me fa crescere il Napoli, non solo a livello tecnico ma a livello caratteriale, qualcuno che sa vincere. A me sembra che l'unica cosa che manca a questa squadra realmente, quindi vieni un po' dalla mia parte, magari sì, lì sì, in mezzo, no, assolutamente serve. D'accordissimo. Ma può essere Iniesta, ma può essere anche un grande difensore, voglio dire, può essere persino Ibrahimovic, uno che conosca la strada, insomma. Iniesta... No, uno che nei momenti difficili stia nello spogliatoio e dica venite qua sulle mie spalle perché io capito. Ibrahimovic è un vecchio pallino, adesso al netto dell'infortunio sappiamo che insomma c'era stata quella suggestione che anni fa, sappiamo della famosa passeggiata in Vespa con Cannavaro per Napoli. Ibra è stato attratto da Napoli, poi non se l'è mai fatto nulla, adesso mi sembra fuori tempo. Secondo me c'è un altro tema, che è Sarri, nel senso che Sarri, che giustamente si è beccato anche applausi, se li merita, secondo me in certi momenti, la caratteristica delle squadre che vincono è avere anche un piano B, e la mia sensazione è che il Napoli, che quando gioca bene è nettamente la squadra più divertente d'Italia, debba trovare per quei momenti che ci potrebbero essere durante la stagione, proprio perché il campionato è una gara di regolarità, dove alla fine vince chi sbaglia di meno, vince il campionato che riesce a vincere le partite tra virgolette sporche, le partite nelle quali non sei in forma, e il Napoli da questo punto di vista secondo me deve crearsi un piano B dal punto di vista tattico. In verità però va detto che fino a che non si fa male Milik il piano B c'è, se andate a vedere Napoli-Benfica, sì, il Napoli gioca di fatto con 4-3-1-2 con Mertens e Milik molto vicini, e non mi stupirebbe se lui facesse la stessa cosa quest'anno. Ma io non credo comunque, però tenendo che... fuori chi, perdonami, perché gioca Insigne dietro Mertens e Milik e sta fuori Calleon, o lo reinventa da interno? Secondo me Calleon, che è un giocatore d'equilibrio in partite dove non devi necessariamente difendere troppo, puoi risparmiarlo, e risparmiare Calleon vuol dire averlo fresco, nel senso che è un giocatore che fa 60 partite all'anno ed è un problema quando non gira, cioè quelle 10 partite, certo, in cui non gira il Napoli soffre è tantissimo. Chiaro che è altrettanto chiaro che Milik tornerà al suo posto presumibilmente, così come Mertens tornerà al suo posto. Beh, già il recupero di Milik di fatto ti dà il piano B. Sì, esatto. Questo... Già alternare il modulo con i tre piccoli al modulo invece con la punta centrale è una, però la caratteristica di Sarri, cioè, lo si vede a Sassuolo, ragazzi, il Napoli recupera la partita perché entra Milik e cambia gioco. Però in assoluto, se io penso a Sarri, penso a uno bravissimo che gioca un gran calcio, ma che quando prende una strada prende quella. Ricordati il minutaggio di Mertens 2 anni fa. Aveva giocato pochissimo, fino alla famosa squalifica di Higuaín aveva giocato pochissimo perché giocava sempre in zicche. Secondo me un pochino più di malizia, un pochino più di scientificità nel turnover, nella gestione delle energie, sul campionato, che è una competizione dove alla fine la regolarità è la cosa più importante, e visto che stiamo parlando di una lotta di dettagli, perché la Juve lo sappiamo che è una squadra che concede pochissimo, e lì secondo me il Napoli deve fare un salto di qualità. Un po' il limite della, forse della Roma di Garcia, no? Quella che non vedevo un piano B, o della Roma del primo Spalletti, che era anche del Napoli di Benitez, come Napoli di Benitez, il Napoli di Benitez, no, quello... Napoli di Benitez non aveva quasi neanche il piano A, ragazzi. Nel momento in cui tu avevi Gargano, quasi neanche il piano A, nel momento in cui tu avevi Gargano e Del Lopez, facevi fatica a fare anche il tuo gioco. Storica promozione con il Newcastle, il primo anno è stato un buon Napoli. No, ma io voi lo sapete, io sono stato io sono stato Raffaelita, però il problema di Benitez, che è il mio unico, la mia unica preoccupazione, il problema di Benitez è che non ha avuto chissà quanto possibilità di fare mercato nel secondo anno. E io noto una cosa, che quando De Laurentiis fa poco mercato, di solito l'anno dopo l'allenatore se ne va, e lui lo sa prima, quindi non vorrei che qui si sta tenendo, visto che il bilancio permetterebbe maggiori investimenti, si sta tenendo gli investimenti per il prossimo allenatore. Quella è la mia paura. Non lo so, intanto deve sfoltire la rosa, perché c'è qualche esubero. Chiudiamo il discorso, ringrazio il direttore dell'Ischia Film Festival, Boris Sollazzo, nostro amico naturalmente, Pierluigi Pardo. Tra l'altro è un weekend straordinario a Ischia, perché c'è il nostro Paolo Condò che verrà premiato quest'anno al premio Ischia, credo lo stesso weekend. E io sono stato l'anno scorso ed è veramente una manifestazione bellissima. Ci quindi vai? Tutti sull'isola. Ci vado, non lo so, se vado a Ischia vado sicuramente a salutare poi Condò, lo incontrerò. Vabbè, poi c'è anche il coniglio all'Istitana che non va sotto. Vabbè, dai, ciao Pier, non fanno morire di invidia. Torniamo subito dopo il GR con Racing Team, doppio appuntamento questa settimana, sia con il Moto Mondiale che con la Formula 1. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Se vuoi stare seduto in panchina a guardare, o vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Racing Team. Dulcis in fundo della settimana di tutti convocati, che poi fundo non è, perché domenica io e Giovanni Capuano siamo qui dalle 17 alle 19. Giovanni, ma anche domenica facciamo tanti motori, dai. Argomento del giorno. Corrono tutti, corrono le moto ad Assen per la seconda volta la domenica nella storia, e appena finita quella corsa lì c'è quell'altra invece che è un po' più a lontana, a Baku. Ciao Leo Turrini. Come andiamo? Tutto bene? Benissimo, fantastico. Roberto Ungaro. Meno bene. Sono fermo sull'Apero Corbano, ve lo volevo dire. No, sì. Ma infatti stavano milioni di ascoltatori che stavano aspettando di sapere sono perché. Sono qui in coda, per fortuna c'è con me Dudu, il barboncino di Berlusconi, Rin Tin Tin, Rex. Sono in compagnia di cani, insomma, si sono tutti adeguati al mio livello. Io dopo avrei una domanda da fare, ma andate pure avanti. No, io volevo invitare Roberto Ungaro a salutare, visto che è qui in studio, a salutare quelli che ci vedono anche sulla pagina Facebook di tutti convocati trattino Radio 24 oppure Radio 24. L'abbiamo detto un paio di volte, no? Forse l'abbiamo detto un paio di volte. Ciao Leo, ciao a tutti. Posso fare una domanda a Ungaro? Vai Leo. Mi dispiace di non potervi vedere in televisione, qui c'è Dudu che abbaia freneticamente, insomma, dopo che è andata a Porta Pompa, va bene, insomma. No, volevo porre a Ungaro il quesito, io credo non della settimana, ma del mese, forse dell'anno, che tutti qui in coda sulla Pero Cormano siamo tormentati da questo interrogativo. Ti pregherei di essere sincero. Ma Belen può entrare al box della Suzuki in questo weekend o no? No, allora io credo che Ungaro, qui dovete rispondere, aspetta, Ungaro ha una risposta molto più seria e articolata. Allora Leo, io ti dico una cosa. Innanzitutto il tuo Iannone è 17esimo nelle ultime FP, è indietro. Vedo male, sento dei rumors negativi, vedo male il matrimonio Suzuki-Iannone, cioè potrebbe che a fine anno ci sia una separazione consensuale, si lasceranno bene, ma anche Rins, perché si è rotto terza volta, adesso è rientrato, però non cavano un ragno da un buco, e quindi il buon Brivio penso che potrebbe tutte e due lasciarli. Iannone chissà dove andrà. C'è stato un interessamento per Pramac, la sua vecchia moto che è molto competitiva, e quindi, e mi spiace per te Leo, perché poi cosa mi chiederai senza quella protagonista? Si chiederà se Belen può entrare nel box della Pramac. Semplicemente. Aspetta Leo, io faccio sentire questa cosa giusto per presentare Assen, poi parliamo ovviamente anche di Baku. Faccio sentire questa cosa che ragazzi hanno preparato. Sì, Assen mi piace tanto, è sempre stato una pista incredibile, mi sono divertito sempre, anche l'anno scorso, la gara non molto, ma sulle prove mi stavo divertendo molto, quindi penso che è una bella pista per me, anche per il mio stile di guida. È una pista positiva per la nostra moto, però in altre piste positive quest'anno abbiamo sofferto, ma in questa c'è un buon grip, di solito Assen, quindi ci dovrebbe aiutare. Ma l'anno scorso per esempio eravamo molto forti in prova, poi in qualifica in gara è piovuto, quindi credo che possiamo essere competitivi anche qua. L'anno scorso avevamo le ali, quindi ancora è una pista che non abbiamo provato, non puoi sapere esattamente se possiamo essere competitivi come l'anno scorso, ma le ultime due vittorie logicamente ci danno molta carica. Vediamo qua come va, sappiamo che è una pista che la Yamaha da solito va forte, ma questo anno non ci sa mai, così dai, proviamo di spingere domani forte, sabato, domenica, e vediamo dove possiamo arrivare l'ultimo giro di gara. Questi erano nell'ordine Vignales, Rossi, Dovizioso e Marquez. Adesso faccio una cosa strana. Allora, la prima domanda al nostro ospite, sicuramente lo conosce come tutti, Lucio Cecchinello, che ringrazio, la faccio fare non a Roberto Ungaro ma a Leo Turrini. No, buongiorno Cecchinello, ci siamo incontrati una volta a Imola, abbiamo fatto una conferenza molto bella insieme. Argomento? Un paio d'anni fa, era proprio dedicata alle moto, c'erano lui, Loris Reggiani e un altro giovanotto. No, e mi stava chiedendo qui Dudu, il barboncino di Berlusconi, sì. Dice che Valentino Rossi non vince una gara da quando davano l'S in TV. Quindi volevo chiedere a Cecchinello se c'è la possibilità che possa vincere Assen domenica. la possibilità c'è, il campionato è molto combattuto e devo dire che poi Valentino fa sempre il sornione nelle prove, poi in gara riesce immancabilmente a essere sempre praticamente sempre sul podio, però da quello che si è visto nelle prove di questa mattina e di oggi pomeriggio in particolare, Vinales pare che abbia una marcia in più. Allora, Roberto Ungaro per Lucio Cecchinello, tu sai che a me piace moltissimo il pilota che ha Cecchinello attualmente. A tutti piace. Ciao Lucio, innanzitutto ciao, complimenti perché te lo sei tenuto stretto, quel gran pilota che ha una gran manetta, ma soprattutto dal punto di vista umano. Ci piace tantissimo. Anche ieri in conferenza la sua ironia è venuta fuori, l'ha dimostrato, lui è così. Quindi bravo, non te lo sei fatto scappare, so che c'era Aprilia molto interessata perché lui voleva comunque una casa ufficiale, ma non tutti sanno che comunque per HRC lui fa un po' da tester, questo te lo volevo chiedere così ci illumini un po', e quindi bravo che l'hai tenuto stretto. La seconda guida, se HRC vorrà Nakagami, e se invece non sarà lui, tu hai detto Morbidelli il tuo sogno, altrimenti chi potrebbe essere? Diciamo che sapete, avete già tutte le informazioni, quindi no. Sono troppo preparato, Lucio. Molto preparato, allora effettivamente le cose stanno così. Stiamo facendo sempre più lavoro di sviluppo con KRC, e questo perché? Perché Cal e Mark, devo dire, sono abbastanza in sintonia con lo sviluppo della moto. E quindi una parte di carico di lavoro dello sviluppo della moto viene passata anche a noi. Per esempio adesso, non a caso, durante le prove di questo pomeriggio abbiamo testato un nuovo pacchetto aerodinamico, un nuovo link della sospensione, insomma stiamo continuando a testare delle cose per loro, e questo ci fa molto piacere perché anche se talvolta è un lavoro oneroso, nel senso che non tutto quello nuovo che portano dà dei risultati positivi e talvolta si perde del tempo, però qualche volta c'è qualcosa di buono che ci consente di rimanere sempre lì nei primi cinque, come per esempio oggi nelle prove di oggi, dove Marquez è terzo, Dovizioso quarto e noi siamo quinti, ecco. Sì, siete lì. Detto questo, abbiamo voglia, il sogno di tornare a fare due moto come nel 2015. L'opzione Nakagami è un'opzione che non è sotto il mio controllo, ma è al vaglio di Honda HRC. Noi stiamo continuando a lavorare comunque in una strada alternativa per cercare di trovare delle risorse economiche che ci possono consentire, insieme al supporto della Dorna, avere una seconda moto. Siamo al lavoro, preferisco non dire nulla perché di fatto non c'è nulla di concreto, però sicuramente per me sarebbe un sogno riuscire a portare Morbidelli tipo un italiano così veloce a farlo debuttare in MotoGP, ma ad essere onesto la vedo abbastanza dura, anche perché è probabile che rimanga nel team dov'è. Quindi con Marvi DS che dalla Moto2 passi alla MotoGP. Allora ti dico una pazzia e provoco, mettiamo che Mark VDS non vada lì e Iannone vada via da Suzuki, secondo come, te come si dice? Sì, perché si sta facendo come si dice a Milano il ganassa un pochino. Lucio, tu ce lo puoi confermare, c'è molta maretta, non si trovano e quindi è possibile che il matrimonio finisca a fine anno. Secondo te potrebbe Morbidelli su una Suzuki, la butto lì proprio, è una provocazione, cosa dici Lucio? Quello spiacerebbe, perché per rimanere su una Honda sarebbe bello vederlo nel tuo team, ma se non fosse su una Honda, quindi neanche Mark VDS, ipotesi Suzuki? Ma sì, l'ipotesi Suzuki potrebbe essere per lui comunque una bella ipotesi, però devo dire che credo che i consiglieri di Morbidelli, soprattutto anche nella posizione che occupa Davide Brivio, potrebbe essere un pelino troppo rischioso affidare una moto come la Suzuki, che è una moto che ha bisogno di essere sviluppata, ad un pilota debuttante che non ha esperienza nella categoria. Allora Lucio, io chiudo con una domanda, dammi il favorito di Assen, ma anche il favorito di Baku, così poi facciamo, scateniamo le Turrini per quanto riguarda la Formula 1. Wow, allora il favorito di Assen direi Vinales, senza ombra di dubbio, perché ripeto, ha fatto un sacco di giri veloci e lo vedo parecchio in forma. E poi favorito della Formula 1, dove è il mio cuore, vorrei che fosse Vettel. Vorresti che fosse Vettel. Grazie Lucio, sì. Buon lavoro. Ciao Lucio. Grazie. Ciao. Turrini, è Vettel il favorito per Baku? Sai, io sono un vecchio bacucco che si trova a dover raccontare un gran premio a Baku. Sono quelle cose figlie della globalizzazione che voi con Barigioni spiegate molto bene a Focus Economia, quindi vorrei dalla Pero Corbano invitare tutti a restare sintonizzati anche su Focus Economia. E d'altra parte sai che ad Assen certo, per tutta la storia si è corso al sabato e adesso è colpa di Barigioni, colpa di Barigioni. Infatti qui c'era comunque Dudu, il barboncino di Berlusconi con in macchina, che guaiva perché ha sentito dire dai vostri esperti che Rossi non vince neanche stavolta, quindi insomma. Come... Ma senti, tornando al bacucco a Baku, allora questa è una pista un po' strana, c'è un rettilineo lunghissimo, infinito, e poi ci sono dei tratti che di fatto diventa quasi un cittadino, passano di fianco a un castello, una cosa abbastanza bizzarra. La Pirelli ha portato gomme di una mescola più dura rispetto a Monte Carlo, e quindi bisognerà capire anche nel corso delle seconde prove libere, che sono appena cominciate, chi si adatterà meglio a questo tipo di scarpa, mettiamola così. Il rettilineo dovrebbe aiutare il nero, francamente, perché comunque ancora loro hanno quel bottoncino, soprattutto in qualifica sul giro secco, che gli dà qualcosina in più. I nostri intendo i ferraristi, mi sembrano comunque consapevoli di potersela giocare, ecco, questo sì. Sì. Vabbè, poi, ma tanto il Nero poi... ha detto che l'anno prossimo si ritira, no? Beh, sai, il Nero, cosa vuoi che ti dica? Io penso che abbia lanciato, ti ricordi la canzone dei Police, Message in a Bottle? Ce la ricordiamo tutti, abbiamo una certa età. Ma sì, che... ma sì, non ero ancora nato. Però ti devo dire che io, a parte che poi dopo ovviamente sono arrivate le precisazioni e le smentite, ma io ho capito che questo intervento, questa ipotesi, potrei anche smettere da parte di Hamilton, fosse appunto un messaggio in bottiglia alla Mercedes per la serie di Alberto Sordi e Monica Vitti. Io so che tu sai che io so, cioè Hamilton sa benissimo che la Mercedes, insomma, vorrebbe portarci in casa Vettel l'anno prossimo, no? Per quanti mesi sono che se ne parla? Uno scambio da pari, Vettel, no, Vettel non ha ancora rinnovato il contratto con la Ferrari, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi penso che lui, facendo trapelare questa intenzione di trasformarci in un clone di Rosberg, no? Come in ma un anche, film di guerra stellare, tu mi stai... Attacks of the Clones, hai capito? Ha detto, ah sì, voi pensate di prendere Vettel, guardate che io non è che ho l'anello al naso, potrei anche piantarvi in asso, ma insomma sono provocazioni. Sì, sono provocazioni, ma tu mi stai dicendo che quindi anche in Formula 1 è già iniziato un mercato piloti che è nel pieno. Nel MotoGP è scatenato. Beh, no? MotoGP finché non risolviamo dove va a finire Belen l'anno prossimo, è chiaro che tutto ruota intanto lì. Leo, per colpa vostra, domenica noi dobbiamo anticipare di un'ora, quindi la gara nostra è alle 13. Ci salta il pranzo. Un discorso che non riguarda nemmeno te, certo, e nemmeno Genta e lo staff di tutti i convocati. Io non capisco perché chi organizza la Formula 1, il mondiale, dico, e chi organizza la MotoGP non si parli durante l'autunno, l'inverno. Sì. Si mettono lì, guardano il calendario, non dovrebbe essere così difficile. No, certo, se vogliono glielo faccio io in coda dalla Pero Cormano, hai capito? Tiro fuori il cellulare, guardo le date e si risolve. Ma comunque, a parte questo, insomma, sì, il mercato piloti, poi magari alla fine non cambia niente, ma è in ebollizione ormai da molti mesi, perché per il resto, voglio dire, i due piloti della Ferrari sono in versione mozzarella e yogurt, perché sia Vettel che Raikkonen hanno la scadenza, non hanno il contratto per l'anno prossimo. Bottas lo pagano coi voucher alla Mercedes, che hanno fatto firmare un contrattino, lì non si capisce bene neanche se è diverso di contributi, comunque anche lui c'ha soltanto 12 mesi di contratto, quindi in teoria sono addirittura tre posti top su quattro che potrebbero cambiare. Poi secondo me è abbastanza probabile che non cambi niente. Sì, abbastanza probabile. Ma la Ferrari fin quando aspetta, perdonami, visto che abbiamo parlato tutta la settimana di Donnarumma e del Milan? Allora, la Ferrari io penso che sia, non voglio dire in una botte di ferro, perché questo è esagerato, ma molto tranquilla. Cioè, mettetevi nei panni di Sergione con Seisao Marchionne. La macchina va forte, al momento Vettel è in testa al campionato del mondo. Quando la Ferrari fa così c'è la fila per venire a guidarla, Sì, però non ci sono tanti di quelli top in giro. No, ma io però credo che Marchionne stia aspettando una risposta di Vettel. Cioè lui stesso pubblicamente, meno di un mese fa, ha detto... Ma quanto l'aspetta? Quanto l'aspetta? Aspetta il tempo che serve. Ecco, se fossi in Vettel, però... conoscendo alla lontana Sergione, Non andrei troppo per le lunghe, insomma, non lo spazientirei poi se no Sergione fa rima con Fassone. Si mette in diretta su Facebook e dice che è finita Gigio, così io Gigio, ma insomma Gigio 5 milioni netti all'anno per uno di 18 anni sono troppo pochi, lo sapete anche voi, tutti i diciottenni in Italia, nel mondo, pensano che un compenso, anche mia figlia che è nata dicevo un giorno dopo Gigio Donnarumma. Prima ne ho detta una bruttissima che non voglio ripetere. Invece, prima di farvi una domanda epocale Ungaro e a Turrini, nel mondiale di nel mercato piloti del moto mondiale, che succede oltre a quello che abbiamo detto? Abbiamo detto che abbiamo tirato una bella bombetta, perché dire Morbidelli in Suzuki, diamo già per scontato che Iannone lascerà Suzuki. Bautista tornerà a Ducati Pramac. Sì. E Aprilia sta cercando un pilota perché la moto adesso è buona. Gli altri contratti sono tutti blindati, quindi grosse novità non ce ne saranno. Marquez Junior non si sa ancora se farà il grande salto nella MotoGP, quindi dalla Moto2 devono salire, però grandi avvicendamenti non ce ne saranno, quello è. Permettimi, Carlo Giovanni, prima di parlare magari due parole di Assen, ricordiamo per tutti gli appassionati delle due ruote Max Biaggi, che purtroppo è più grave del previsto, però gli hanno tolto il respiratore, ma i due polmoni sono lesionati, quindi dovrà osservare un recupero, una terapia molto più lunga del previsto, non lascerà l'ospedale, quindi siamo tutti con lui e comunque non è in pericolo, questo è importante. Mentre invece due cose di Assen, pensa che ieri c'erano 32 gradi, oggi 19, si è vista anche la pioggia, con le gomme che hanno stanno impazzendo, questo vi dico, e quindi è veramente un terno all'otto. 5 piloti in 28 punti, secondo me è un campionato che è il punto di domanda più grosso di sempre negli ultimi 10 anni. Non possiamo anche sapere. L'anno scorso non è stato male, sì, anche l'anno scorso Lucio ha detto Vignale, se io qua vedo bene anche Marquez, attenzione perché Marquez lo vedo bello aggressivo, e quindi stamattina due rotture Ducati, due motori rotti, Dovizioso ha perso olio ma anche Petrucci, però Petrucci è stato il più veloce, pensate, poi Zarco e Cracciolo, mentre invece nelle ultime prove Vignales, lo abbiamo già ricordato, poi Folger, Marquez terzo, Dovizioso quarto, quinto Cracciolo. Rossi è sesto, quindi non è Rossi, il nuovo telaio Rossi, funziona. Sai che non stiamo neanche a guardare Rossi in prova. Io volevo fare un domandone epocale, visto che abbiamo ancora due minuti. Quello che Roberto Ungaro ha detto, per colpa vostra della Formula 1, ci tocca correre alle 13 e dobbiamo saltare il pranzo. C'è uno dei miei migliori amici, che è un grande seguace della Formula 1, che dice sì, la Formula 1 è il top, le moto le guardo ma mancano due ruote. Carlo, vedi, con noi non ci si addormenta nella digestione, e invece con loro, io lo dico anche per questo e per tutti, perché noi alle 2 non ci sono problemi di addormentarsi, non c'è la palpebra pesante. Hai capito? E invece con i fratelli con due ruote in più, la bombona ha tirato a Turrini. Vabbè, no, il problema è che talvolta si addormenta Raikkonen in corsa, non il telespettatore. Ma comunque, voglio dire, io penso che siano spettacoli tra loro diversi, accomunati da quella grande passione per la velocità, per il rischio che appartiene a chiunque salga su una moto o a chi si cali nell'abitacolo di una Formula 1. Poi è evidente che parliamo di mondi distinti e distanti, anche se devo dire, questo mi dispiace per le moto, che vi state avvicinando con la storia delle gomme decisive, e non è bello questo. No, infatti. Noi l'abbiamo visto con la Formula 1, dovreste starci attenti. Perché quando poi le scarpe cominciano a fare il vestito, sono troppo importanti, finisce con il rimetterci poi lo spettacolo in quanto tale. Ma come, devo finire, Giorgio De Luca? Devo chiudere? Ma dai, tempo tiranno, mi stavo divertendo così tanto. Ciao Leo, ci sente presto. Io torno in coda qui sul Piero Corbaro con i miei cagnolini, vi saluta Dudu, state bene. Ciao Leo, ciao Turrini, ciao Roberto Ungaro, ciao Carlo, ciao Giovanni, un saluto a tutti. Domenica. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Ciao a tutti. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.